fermi, ti avveni, poi passerà. Ascoltami bene, io non potrei prenderti in giro, non ce la farei. Se fossi te, io scapperei. Non datti vita da un uomo che poi uomo non è. Per carità, no, non si gioca con un'anima. Corri via, la polizia, anche se non ci credi ti aiuterà. Che pena mi fai, non piangere più. Guarda che se tu vuoi il cielo è lassù. Sembra felice ma non come te. Ami colui che promesse ti fa, ma dopo un po' le stesse cose farà. Ti picchierà, ti insulterà. Questa tua vita ti ha punita già. E la verità è quella che non si gioca con una come te. Corri via, la polizia, anche se non ci credi ti aiuterà.